nazione proclama, dichiara, governa tu la nazione, conosca la tua gloria, tu sei il Signor. La nazione proclama, dichiara, governa tu la nazione, conosca la tua gloria, tu sei il Signor. Conosca. davanti al Signore e al suo gran potere. In silenzio davanti a Lui tutta la terra si umili davanti al Signore e al suo gran potere. In silenzio davanti, in silenzio davanti a Lui tutta la terra si umili davanti al Signore e al suo gran potere. In silenzio davanti a Lui, in silenzio davanti a Lui tutta la terra si umili davanti al Signore e al suo gran potere.